Ok, io vi ringrazio, grazie Miki del tuo appoggio, del tuo supporto e spero che questa piccola parentesi che andava fuori dal tema della singolarità venga comunque interpretato bonariamente o tenuto ad aggiornare anche gli altri che potevano essere interessati. E ringrazio ancora tantissimo per l'ospitalità Pyramid Café. E per l'organizzazione Vision Rainmaker e tutti gli altri che hanno contribuito e tutti quelli che hanno parlato e quindi come Malachi per esempio con la sua mappa che però devo dire non era 3D, era nello spazio ma era comunque piatta e hanno lavorato. E io ho avuto un problema tecnico e quindi non ho potuto fare la registrazione audio e video. Qualcuno prima mi ha detto che stava registrando, quindi siccome abbiamo promesso anche ad altri che l'avremmo fatto nel momento in cui è online oppure viene ecco, comunque elaborato, se possiamo avere l'URL in modo da poterlo diffondere. E con la costituzione anche formale dell'Istituto per la Singolarità, sicuramente avremo bisogno di rivedere un po' la nostra organizzazione. Essere riusciti a vedersi per 4 volte con queste scadenze mensili è stato eccezionale. Anche in futuro cercheremo di farlo, ma si dovrà anche aumentare la produzione di contenuti e rivederli qualitativamente oltre che quantitativamente. Quindi chiunque volesse contribuire, vi ringrazio per l'entusiasmo e per la partecipazione. Mi stanno chiamando all'altra riunione, quindi vi lascio e grazie ancora.